professor Ferini Strambi, si dice, no, che passando un po' con le primavere il sonno diventi sempre più frammentato. Ma che cosa può fare Bruna? Allora, questo è uno di quei casi, qui lo dico con tranquillità, è uno di quei casi in cui il sonno andrebbe studiato. Non voglio fare delle semplificazioni, ma per avere così dei dati così. Allora, quando c'è un problema di addormentamento, non è difficilissimo a volte arrivare a capire qual è la causa, perché la causa può essere un disturbo d'ansia, perché la causa può essere la sindrome delle gambe senza riposo, cioè quindi spesso si riesce a identificare la causa. Quando ci si risveglia molto presto al mattino, a volte la causa appunto è relativa a un problema di deflessione del tono dell'umore, insomma, ecco, non voglio dire magari una depressione vera e propria, ma comunque il tono dell'umore che cala. Quando invece ci sono problemi di frequenti risvegli nel corso della notte, ecco, questi casi andrebbero studiati, in questi casi va valutato il sonno. Perché? Perché le cause possono essere tantissime. Pensiamo ad esempio al fatto di avere il miocrono notturno, cioè quegli scatti alle gambe che creano questi risvegli nel corso della notte. Il problema può essere legato a un problema respiratorio durante la notte. Ecco, bisogna in questi casi cercare di registrare il soggetto, perché non si può molto spesso dalla semplice racconto del paziente o del soggetto riuscire a capire qual è la vera causa. Quindi c'è un esame molto semplice che registra proprio tutto il sonno, no? Trascrive il nostro sonno. Esattamente, ecco, in questi casi è opportuno farlo, perché sa qual è poi l'errore? L'errore che si fa è quello che, come diceva l'ascoltatrice, poi si utilizza una pillola, la pillola non funziona bene, poi si cambia, si va un'altra pillola, cioè quindi ecco, si fanno i tentativi, no? Ecco, queste cose assolutamente andrebbero evitate. E adesso vorrei parlare con voi della nostra voce per imparare a prendercene un po' cura. Devo dire che è un'attenzione a cui non siamo stati educati e forse che ci viene anche difficile proprio perché non conosciamo l'anatomia e la meccanica che stanno dietro alla produzione dei suoni, delle parole. Allora ho chiesto aiuto ad un'esperta, la dottoressa Mariangela Viganò, foniatra all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Dottoressa, io pensavo a questo. Noi siamo abituati a dedicare ad alcune parti del corpo molte attenzioni, a volte troppe, e a trascurarne altre. La voce, o meglio tutto quello che sta dietro alla produzione della voce, l'apparato pneumofonatorio, come lo chiamano gli addetti ai lavori, è sicuramente una di queste. Allora oggi mi piacerebbe, con il suo aiuto, regalare alla nostra voce un po' di relax. Noi lo facciamo solitamente quando siamo stanchi, ci sentiamo la testa piena di pensieri, stacchiamo la spina, lo facciamo per i nostri muscoli, per la nostra digestione, per la nostra pelle. Bene, oggi lo faremo per la nostra voce. Che dice, ce la faremo? Sì, sicuramente. Allora, direi che giustamente ha detto che la voce è proprio il prodotto di più sistemi e apparati, quindi quando dobbiamo prenderci cura della nostra voce dobbiamo innanzitutto pensare che anche l'apparato respiratorio, quindi i nostri polmoni, hanno un ruolo fondamentale nella produzione della nostra voce, perché rappresentano il motore vibrante delle nostre corde vocali. A questo punto direi che la cosa più importante da effettuare per poter coordinare bene l'emissione della voce è fondamentale utilizzare bene la respirazione, soprattutto quella di tipo diaframmatico. Potremmo, ad esempio, un esercizio molto semplice da effettuare da seduti, posizionare una mano sulla regione diaframmatica, che è quella regione che sta subito sotto lo sterno e sopra la zona ombelicale. Prenderemo a questo punto lentamente aria dal naso, effettuando un rigonfiamento della regione diaframmatica. Effettuato questa presa di aria, emetteremo un soffio prolungato, lento, un soffio aereo, per svuotare completamente i nostri polmoni. In questo modo potremo cominciare a preparare quell'equilibrio fra respirazione e voce che sono fondamentali per la coordinazione pneumofonica. Quindi, dottoressa Viganò, prima regola: respirare profondamente lavorando di diaframma. Certo. Ne sentiamo sempre parlare, ma il diaframma lei l'ha ben localizzato tra lo sterno e l'ombelico, quella parte della pancia lì. Sì.